Flaviano da Milano, buongiorno. Volevo dire in merito al discorso degli infortuni, soprattutto muscolari, che oramai diciamo quasi tutte le società lamentano, eccetera, eccetera. Allora, io ho avuto una grossa esperienza a Trieste, sono Flaviano Tonellotto. E quando ho cercato di inserire una alimentazione naturale anche adeguata e proporzionata, no? Agli impegni, eccetera, eccetera, no? Sono stato deriso. Allora, io so che se si segue una certa alimentazione è anche dovuto alla proporzione degli impegni, no? Perché aumentano sempre di più le partite, qui, no? Ci sono esigenze, Coppa Italia, certo. Europa, eccetera, eccetera, no? È importantissima l'alimentazione, ma molto importante. Ecco, io direi che molte società dovrebbero fare molto più tesoro di però non un'alimentazione che segue gli sponsor, attenzione. No, un'alimentazione no. Che sia adeguata per lo sforzo e per quello che dà fisicamente il ragazzo, perché se no il ragazzo si trova sì, io una non volta credo... in infiltrazioni, una volta di qui, una volta di là, diventa io non credo molto che sia, non credo che possa essere soltanto problema di alimentazione. Credo che le società, anche prima del suo avvento a Trieste, insomma, più o meno qualche nozione l'avessero.